Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, domani comincia il gran circo della politica, comincia con un appuntamento importante, fondamentale, che è l'inizio della discussione alla Giunta delle elezioni del Senato, dove si discuterà del futuro politico, del destino politico di Silvio Berlusconi. E questo quindi è un po' il momento per fare anche un bilancio dell'esperienza politica di Berlusconi, per capire che cosa abbia rappresentato lui e il suo movimento nella storia d'Italia. A Berlusconi sono stati dedicati molti libri, spesso anche molto critici, molte interpretazioni anche semplicistiche nella loro violenza contro Berlusconi. Almeno questa è la tesi del libro che adesso vi propongo, di cui è autore un docente all'Università LUISS di Roma, Giovanni Orsina. Il titolo è Il berlusconismo nella storia d'Italia, Marsiglio, 240 pagine, 19,50 €. Lo studioso dunque vuole condurre un'analisi piana, ragionata sul fenomeno Berlusconi che colloca nel solco profondo della storia d'Italia. Il berlusconismo non è affatto incomprensibile e non è neanche da considerare, come lo giudica una frequente vulgata nella nostra letteratura politologica, come una fisiologica minorità politica e morale dell'elettorato di Berlusconi, che in fondo ha continuato a premiarlo contro tutte le aspettative, anche alle ultime elezioni di febbraio. Perciò nel libro si parte da una rapida ma strutturata ricostruzione della storia d'Italia per esaminare le forze profonde che hanno determinato la storia politica del nostro paese, e diventa così più interessante l'analisi su Berlusconi, che non appare più un barbaro piombato improvvisamente a sconvolgere una politica che correva su binari ideali, ma piuttosto il frutto dei fallimenti di quella politica. Insomma, Berlusconi e i suoi elettori vanno presi sul serio. E allora su questo sentiamo l'autore, che appunto cerca proprio di considerare nel libro le ragioni che possono spiegare il successo di Berlusconi, senza per questo diventare di parte o nascondere quelli che sono stati tutti i limiti della sua esperienza politica. Buongiorno a Giovanni Orsina. Buongiorno. Giovanni Orsina, nel suo libro lei insiste molto su una costante nella storia d'Italia, la visione, come lei la chiama, ortopedica pedagogica che le élite avrebbero avuto e che ha un po' corrotto tutto il modo di far politica nel nostro paese dall'unità fino a oggi. Ecco, in che cosa consiste questa visione? Ma io ho cercato di individuare nella storia d'Italia una sorta di filo rosso, che poi naturalmente va inteso come filo rosso, cioè come un elemento che unifica, ma poi intorno al quale ce ne sono poi anche di molto diversi. Comunque nella sostanza credo che ci sia nella storia d'Italia un prevalere quantomeno dell'idea che la società italiana sia una società arretrata, che debba essere riportata al livello di modernità mostrato dai paesi più moderni, più progrediti, più civili, chiamiamoli come vogliamo, e che questa modernizzazione dell'Italia debba essere compiuta dalle istituzioni politiche, dalla politica in generale. Quindi che la politica sia meglio del paese e che abbia quindi il diritto dovere di cambiare il paese per adeguarlo agli standard fissati da paesi più civili. Come ho detto, è un filo rosso, intorno a questo ci sono tanti altri elementi che anche contraddicono questo elemento, e io ritengo poi che questo elemento abbia anche portato dei risultati positivi in determinati casi, però ritengo che poi a un certo punto in particolare questo elemento sia entrato in crisi. E Berlusconi cerca di sovvertire questo paradigma, invece basandosi su una politica fatta di ipopolitica, cioè di poca politica, una politica basata sullo scetticismo. Sì, secondo me, appunto, fermo restando che questa idea che la politica, le istituzioni politiche siano meglio del paese e lo debbano cambiare, non è un'idea sbagliata in assoluto, cioè se ne può discutere assolutamente, però questa idea, soprattutto poi a partire dal miracolo economico, quando il paese si sviluppa, e pensiamo appunto anche al clima politico-culturale degli anni Ottanta, questa idea comunque entra in una crisi e Tangentopoli segna agli occhi del paese la dimostrazione che forse la politica tanto meglio del paese non è. Berlusconi emerge in questo contesto, quindi dentro il contesto politico-culturale degli anni Ottanta e dopo Tangentopoli, e rovescia completamente il paradigma. Tutta la lettura di Berlusconi è legata all'idea che la società italiana sia meglio della società politica, che sia buona in assoluto e che quindi la rinascita dell'Italia passi attraverso il ritiro della politica, che diventa quindi semplicemente ancella della società, o addirittura ancora di più attraverso la reinvasione della politica da parte della società. Se il modello appunto ortopedico pedagogico prevede una politica che invade la società e la cambia, il modello berlusconiano prevede la società che invade la politica, cioè la classe politica che viene dalla trincea del lavoro, e quindi sovverte completamente il modello. E questo, a mio avviso, è stato uno dei motivi del suo successo politico, ma anche uno poi dei motivi del suo fallimento politico. Le due cose, secondo me, possono anche essere tenute insieme. Ecco, infatti veniamo a questo, al fallimento. In che cosa è consistito l'errore di Berlusconi? Che cosa ha sbagliato? A parte un elemento sul quale pure lei insiste, che è la componente personalistica, un po' cesaristica, che ha dato al partito. Innanzitutto bisogna chiedersi se Berlusconi abbia fallito e in che cosa abbia fallito, perché stiamo parlando di fenomeni storici molto complessi. E questa idea del fallimento, che nella storia d'Italia è stata applicata a tanti modelli, ovviamente è un'idea che va un po' articolata. Cioè, quest'uomo egemonizza il paese da 20 anni, questo in termini politici è tutt'altro che un fallimento, quindi tanto per, diciamo, enucleare soltanto un elemento che va contro il modello del fallimento. La mia interpretazione è che questo fallimento va letto nel fatto che Berlusconi ha promesso, nel rovesciare questo modello tradizionale, di risolvere il problema del rapporto fra Stato e società che tormenta il paese fin dal Risorgimento, e in questo non è riuscito. Quello si vede anche negli studi sull'opinione pubblica, cioè la diffidenza dei cittadini nei confronti delle istituzioni certamente non è diminuita, forse anche aumentata. Perché non c'è riuscito? Ci sono anche qui tutta una serie di motivi, ma io credo che ce ne siano due in particolare che devono essere sottolineati. Il primo è che l'immagine della società italiana così positiva e così capace di far da sé, che è alla base della propaganda berlusconiana, è un'immagine in larga misura fittizia. La società italiana ha un sacco di problemi e poi è un'immagine molto lombarda. Cioè Berlusconi ha in testa questa società vitale, autonoma, buona, che Berlusconi ha in testa è molto tarata sull'idea della società brianzola, lombarda, capace appunto di esprimere un certo tipo di vitalità che però in altre regioni d'Italia invece è nettamente inferiore. Questo è un primo elemento, quindi c'era una premessa fittizia. Il secondo elemento è che questa idea della società civile capace di far da sé è comunque molto legata al clima degli anni Ottanta. Già negli anni 90 era un po' fuori tempo, ma quando entriamo nella vera stagione del berlusconismo di governo, ossia nel 2001, quell'idea è completamente in via di appassimento. È l'11 settembre, è poi la crisi economica, è l'idea che invece lo Stato serve, che lo Stato risolve i problemi. Mentre la retorica berlusconiana alla fine degli anni 90 e ancora all'inizio del 2000 resta fortemente legato a questo modello originario, che è un modello appunto legato al clima degli anni 80 e ormai fuori tempo. Ecco, lei insiste nel suo libro per collocare Berlusconi all'interno di un fondamento profondo nella politica italiana, con degli elementi di cui abbiamo anche parlato adesso. Secondo lei le prospettive per quel tipo di elettorato che in questi 20 anni si è rivolto a Berlusconi adesso quali sono? Secondo me nel breve medio periodo non buone, nel lungo invece forse qualche spazio in più c'è. Allora, innanzitutto Berlusconi, come ben sappiamo, non è ancora uscito di scena e bisognerà vedere quando e come uscirà di scena, forse il come è ancora più importante del quando. E questo è un primo elemento che lascia degli spazi appunto di dubbio, di perplessità intorno a quello che potrebbe essere il futuro di quell'elettorato. Certamente quell'elettorato storicamente ormai negli ultimi 20 anni è stato fortemente dipendente da Berlusconi, questo non c'è dubbio, perché Berlusconi è riuscito a metterne insieme i vari pezzi, un elettorato arrabbiato, antipolitico, ostile nei confronti delle istituzioni, insieme a un elettorato più d'ordine, più borghese, più moderato, e poi quella parte dell'elettorato, che è un paradosso italiano, che allo stesso tempo moderata e d'ordine e arrabbiata, ed è riuscito soprattutto a recuperare il voto di persone che sono distanti dalla politica e che con i mezzi politici tradizionali, il partito, la propaganda, sono molto difficili da pescare. Questi li ha pescati proprio il carisma personale di Berlusconi, la sua capacità di stare in televisione. Quindi dipende da come uscirà di scena. Nell'immediato quest'area, secondo me, senza Berlusconi farà una gran fatica a tenersi elettoralmente insieme e ad avere un peso importante, un peso lo avrà, e sarà un peso comunque notevole, però almeno avrà difficoltà ad aspirare ad essere maggioritaria. Nel lungo periodo invece poi il discorso è diverso, perché lì una domanda politica reale c'è, e noi sappiamo che una domanda politica prima o poi trova un'offerta politica. Grazie a Giovanni Orsina, autore del Berlusconismo nella storia d'Italia. Buona domenica. Grazie moltissimo a voi e buona domenica a tutti. Grazie mille. E una lettura da destra assai amara sulla politica italiana, in particolare sul fallimento della destra politica, è quella del giornalista Stelio Solinas. Il libro si intitola Gli ultimi moicani, quel che resta della politica, Bietti, 122 pagine, 13 euro. Perché gli ultimi moicani? Perché un giorno l'autore si trova in un remoto circolo di sinistra in Sicilia a discutere, naturalmente non è d'accordo con i suoi interlocutori, a un certo punto polemizza con un anziano elettore di sinistra, apostrofandolo come l'ultimo dei moicani, perché è l'ultimo che crede ancora al comunismo, e si sente rispondere che invece tutti e due sono gli ultimi moicani, perché tutti e due credono ancora alla politica. Questo spiega quindi il titolo. Gli ultimi moicani sono coloro che ancora si ostinano a credere alla politica, scrive l'autore, che, parafrasando Talleyrand, chi non ha conosciuto la politica tra gli anni 60 e 80 del secolo scorso non ha conosciuto la dolce terribilità del vivere. La sensazione di essere come gli ultimi moicani nasce da qui, l'intestardirsi a sognare e a cercare qualcosa che non c'è più. E nel libro si parla molto del fallimento di Berlusconi, appunto sulla sinistra, sulla quale emerge un giudizio molto simile a quello che dà Orsina, e cioè che la sinistra abbia molto peccato in questi anni per considerarsi, scrive, l'avanguardia intellettualmente colta ed eticamente pura di un popolo di lazzaroni. Si esamina il fenomeno attuale di Grillo, che in qualche misura è considerato come una continuità a modo suo di Berlusconi, perché anche Grillo è un outsider, proviene anche lui dal mondo dello spettacolo, scrive Solinas, anche lui un incredibile repertorio di barzellette, lazzi e sberleffi, eccetera eccetera. E sullo sfondo del libro un ritratto impietoso della società italiana, anticipato già da Leopardi, quando il grande poeta scriveva: le classi superiori d'Italia sono le più ciniche di tutte le loro pari nelle altre nazioni, il popolo italiano è il più cinico dei popolacci. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Quest'anno ricorre il settantenario del 1943, un anno segnato da eventi drammatici, tragici, alcuni dei quali abbiamo già ricordati in questa trasmissione, come la caduta del fascismo il 25 luglio. Oggi naturalmente ricordiamo il settantenario dell'8 settembre, la data dell'armistizio che segnò non la fine della guerra, come avevano sperato molti italiani allora quando venne comunicata, ma anzi una nuova fase ancora più feroce con i nazisti che dal alleati si fanno occupanti del paese, che controllano ferocemente metà dell'Italia. Ma nell'immaginario collettivo quella data è rimasta fissa anche perché rappresentò in qualche modo una forma di implosione dello Stato, delle istituzioni e della monarchia, per il modo approssimativo e confuso, per non dire di peggio, con il quale si giunse appunto alla decisione dell'armistizio e al modo in cui fu comunicata. Un dramma che giustificò la formula che poi venne coniata della morte della patria che si sarebbe verificata in quell'occasione. Sono pagine quindi di storia importanti, anche perché su di esse si basano gli sviluppi successivi della storia d'Italia. Eppure, nota l'autore di uno dei libri che adesso vi segnalo, la memoria del 43-45, che continuiamo a dichiarare il periodo fondante della nostra democrazia repubblicana, appare sempre più debole e sfumata. L'autore è Gianni Oliva, un esperto del Novecento che ha scritto L'Italia del silenzio, 8 settembre 1943, storia del paese che non ha fatto i conti con il proprio passato, è pubblicato da Mondadori, 192 pagine, 19,50 euro. Oliva nota che in realtà non si tratta solo di distrazione per spiegare appunto questa sorta di rimozione di quegli anni. In realtà, a suo parere, tutta la ricostruzione della partecipazione italiana alla Seconda Guerra Mondiale è stata falsata da una rappresentazione che lui chiama monumentale, che ha cercato di astrarre alcune questioni dirimenti, quelle per esempio sulla corresponsabilità, scrive, della classe dirigente con il fascismo, sul ruolo degli intellettuali nel ventennio, sull'espansionismo coloniale, sulla guerra d'aggressione del 1940-43, sui crimini contro i civili nei Balcani e in Grecia, sul modello di occupazione del territorio, sulla cooperazione militare con la Wehrmacht, per poi concludere che questa astrazione ha finito per marginalizzare la campagna d'Italia, dimenticando che l'esito della guerra, scrive Oliva, è stato determinato dallo scontro tra alleati tedeschi sulla linea Gustav prima e sulla linea gotica poi, e non dalla guerriglia nelle vallate alpine o nelle città del nord. Insomma, la lettura che si è data di quegli anni è una lettura spesso politica e interessata, che serviva soprattutto a giustificare molte scelte politiche che vennero fatte successivamente. La coscienza collettiva, scrive infatti Oliva, ha rielaborato il passato con troppa fretta, proiettando soluzioni e glorificazioni che scaturivano dalle urgenze politiche contingenti, con risultato che, esaurita la stagione che ha prodotto l'autorappresentazione, ha iniziato a esaurirsi anche la memoria e siamo rimasti senza passato. Perciò è tempo di nuove domande, dice l'autore, ad alcune delle quali vuole rispondere questo libro, che rilegge, tenta di rileggere quegli avvenimenti e descrive come questa fase fu raccontata e come venne ricostruita in qualche modo la memoria dell'Italia. È particolarmente interessante perciò la seconda parte del libro, in cui Oliva dimostra come spesso la letteratura sia stata più efficace nel descrivere l'autentica dinamica di quei mesi drammatici. Si parte nelle citazioni da Curzio Malaparte, che per esempio descrive, scrive Oliva, il degrado di Napoli liberata tra virgolette tra il dilagare della prostituzione minorile e l'infamia delle vergini comprate per $3, e poi si continua con Moravia, la Ciociara, con Carlo Cassola e la ragazza di Bube, dove ritrae, scrive Oliva, un dopoguerra inquieto, dove le tensioni del conflitto si prolungano nel tempo della pace, Tomizza, Tobino e altri autori. L'altro libro che parla dell'8 settembre è quello di uno storico dell'Università di Bologna, Paolo Sorcinelli, si intitola semplicemente 8 settembre, pubblicato da Bruno Mondadori, 228 pagine, 18 euro. Questo libro collega invece l'8 settembre alle vicende belliche e politiche che lo avevano preceduto e utilizza, e questo lo rende particolarmente interessante, molte testimonianze su quelle settimane, alcune particolarmente documentate, precise e anche ben note, per esempio quella di Carlo Chevallard a Torino o di Iris Origo nella campagna toscana, alcune letterarie come quelle di Giuseppe Berto o Luigi Meneghello, due scrittori in divisa, e altre di gente comune. E quindi il libro documenta la approssimazione del momento, dal re e da Badoglio in giù, che provocò quello sbandamento generalizzato di cui parlavo prima, che spezzò la catena di comando, come descrivono queste righe che adesso vi propongono e che riassumono proprio il clima delle ore febbrili dell'8 settembre. Quando arrivò l'8 settembre, di fatto l'esercito non c'era già più. E ai generali, ai colonnelli, ai maggiori, ai capitani, non restò altro che liquidare la truppa con un «Che Dio vi aiuti» e scappare prima ancora di vedere una divisa dell'alleato invasore, mentre i soldati si diressero verso i loro paesi, pensando che andavano a casa, proprio in tempo per la ratura. Ma se non c'era l'esercito e non c'erano i soldati, non c'era neppure il re e neanche il governo. Perché, guarda caso, anche il re e gli stati maggiori militari non videro l'ora di lasciarsi alle spalle le paure romane, anche a costo di lasciare mano libera a Kesselring, che infatti sbrogliò la questione di Roma e la questione di Mussolini, nel modo a lui più favorevole. In qualunque modo la si rigiri, la sostanza è che in un colpo solo si fecero due favori agli ex alleati. Attestarsi a Roma e non dover ritirarsi a ridosso della Valle Padana, come avevano preventivato, e liberare l'ex duce per ricucire attorno alla sua figura un'entità politica e amministrativa in grado di coagulare le non sopite velleità fasciste. Una mossa che costerà 20 mesi di profonde lacerazioni fra chi scelse la parola d'ordine della liberazione dal nazifascismo e chi invece optò per salvare l'onore dell'Italia e riscattare il tradimento del re e di Badoglio. E sulla Seconda Guerra Mondiale segnalo il libro di uno storico militare britannico, ex ufficiale gli stesso, Anthony Beevor, che si intitola La Seconda Guerra Mondiale, i sei anni che hanno cambiato la storia, pubblicato da Rizzoli, 1088 pagine, 25 euro, tradotto da Daniele Didero. Questa è una documentatissima storia delle vicende che incendiarono l'Europa e poi il mondo, anche con una documentazione fotografica, particolarmente interessante perché è globale, che affronta quindi le implicazioni politiche viste dalle capitali coinvolte nel terribile conflitto. Conseguenza dell'occupazione di Roma da parte dei tedeschi fu il rimanere sola da parte della Chiesa come unico contropotere che poteva fronteggiare in qualche modo il nazismo, e di questo parla il libro di Pierluigi Guiducci, Il Terzo Reich contro Pio XII, Papa Pacelli nei documenti nazisti, è pubblicato da San Paolo, 376 pagine, 18 euro, in cui si raccolgono molti documenti provenienti dall'archivio centrale tedesco e dall'archivio della ex Stasi e poi anche da archivi ufficiali inglesi e americani, documenti dai quali emerge, scrive l'autore, che i gerarchi nazisti, specie nei messaggi rigorosamente coperti da segreto, espressero valutazioni sempre negative su Papa Pacelli, già in anni precedenti la sua elezione al pontefice. Quindi questi documenti cercano di rovesciare l'immagine di un papa che sarebbe stato favorevole o troppo silente nei confronti del nazismo. Ultimi arrivi. Comincio con un libro che si ricollega ai temi di cui abbiamo appena parlato, un libro di un grande politologo, Giorgio Galli, che ha scritto Hitler e la cultura occulta, è pubblicato da Rizzoli, 280 pagine, 10 euro. Qui l'autore colloca il nazismo all'interno di un filone esoterico particolarmente forte in Europa. Una lettura questa che rende per Galli una mezza verità, come egli la chiama, la tesi di una democrazia vittoriosa contro i totalitarismi. Vi segnalo poi un altro libro di attualità perché ricorre l'anniversario della morte di un grande italiano, e cioè Carlo Maria Martini. In questa occasione è stato pubblicato Io sono voce, tracce di una vita, curato da Virginio Pontigia, pubblicato da Mondadori, 172 pagine, 15 euro. Queste sono riflessioni del cardinale raccolte da vari suoi scritti, da vari suoi libri, e resi organici in alcuni capitoli curati appunto da Pontigia, che ci fanno ripercorrere ritratti più significativi dell'insegnamento e delle lezioni di Martini. E infine vi segnalo un'opera narrativa di Cristiano Cavino, un autore italiano già affermato. Questo si intitola Inutile tentare, imprigionare sogni, è pubblicato da Marcos e Marcos, 216 pagine, 16 euro. E l'ultimo libro dello scrittore romagnolo, Made, anche questo, come viene orgogliosamente firmato alla fine del libro, in Casola Valsenio, dove si svolgono gran parte dei libri di Cavina. In questo caso il libro è ambientato in un istituto tecnico. E a questo punto il confettino. Vi segnalo un libro che è considerato un classico, l'autore Janosch è il nom de plume di Horst Eckert, e di cui questo libro è considerato il capolavoro. Si intitola O come bella Panama, è pubblicato da Calandra, tradotto da Emma Vaccaro e costa 15 euro. Il viaggio è quello di tigre e orso che vogliono raggiungere Panama affascinati dal profumo delle banane e si illudono di arrivarci scoprendo la forza dell'amicizia e ritornando senza saperlo a casa propria. Prima di salutarci vi segnalo una nuova iniziativa che inizia il 13 settembre nell'Appennino Campano a Piedimonte Matese, che è lungo la strada della Via Francigena del Sud, dove si terrà la prima edizione del Festival dell'Erranza, un festival dedicato appunto al tema del nomadismo. che sarà concluso dopo la partecipazione di molti critici, scrittori, letterati, registi, uomini di spettacolo, da Eugenio Bennato. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Roberto Scaltritti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.